Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. La storia dei funerali del calabrese, risaputa al comando di brigata, suscitò disapprovazione e il commissario Giacinto viene chiamato ancora una volta al rapporto. Intanto gli uomini, rimasti nel casolare, sfogano una rabbiosa e gonfia voglia d'allegria, ascoltando gli scherzi di Pin che, risparmiando per quella sera i cognati in lutto, s'accanisce contro Zene il Lungo, detto Berretta di Legno. La Giglia sta a ginocchioni vicino al fuoco, porgendo man mano la legna sottile al marito che bada a nutrire la fiamma. Intanto segue i discorsi e ride e gira intorno gli occhi verdi. E ogni volta i suoi occhi si incontrano con quelli ombrati del dritto, e allora anche il dritto ride col suo sorriso cattivo e malato, e rimangono con gli sguardi incrociati finché lei non abbassa gli occhi e sta seria. «Pin, smettila un po', dice Giglia, cantaci un po' quella, chi bussa alla mia porta». Pin lascia in pace il genovese per mettersi a stuzzicare lei. «Chi vorresti ti bussasse alla porta? Dimmi un po', Giglia», fa Pin, «quando tuo marito non è in casa». Il cuoco alza la testa calva arrossata dalla vicinanza della fiamma. Ha quel risolino di quando lo prendono in giro. «A me piacerebbe che bussassi tu e che avessi tu calle calcagna con un coltellaccio che dice «io ti taglio i budelli» e poterti chiudere la porta in faccia». Ma il tentativo di rimettere in mezzo Duca è maldestro e non attacca. Pin fa qualche passo verso Mancino e lo smiccia di traverso sogghignando. «Oh, guarda un po', Mancino, ma è proprio vero che quella volta non te ne sei accorto?» Mancino ormai ha imparato il gioco e sa che non deve chiedere di quale volta si tratta. «Io no, e tu?» risponde, ma ride agro perché sa che Pin non lo risparmia e gli altri pendono dalle sue labbra per sentire cosa tira fuori. «Quella volta che dopo un anno che eri in navigazione, tua moglie ti ha messo al mondo un figlio e poi l'ha portata al ricovero e tu sei tornato e non ti sei accorto di niente?» Gli altri che hanno tirato il fiato fino allora si sganasciano e mettono in mezzo il cuoco. «Oh, Mancino, com'è andata? Questa non ce l'avevi mai detta!» Mancino si sganascia anche lui, agro come un limone verde. «Perché?» fa. «Con questo figlio ti sei incontrato quando eri al ricovero dei bastardi e te l'ha raccontata?» «Ma basta», dice Giglia, «possibile che non puoi stare senza fare il maligno? Pin, cattaci un po' quella là che è così bella». «Se mi pare», fa Pin, «io su ordinazione non lavoro». Il dritto s'alza in piedi lentamente e si stira. «Dai, Pin, canta quella canzone che t'ha detto lei, o fili di guardia». Pin si scansa il ciuffo dagli occhi per smicciarlo. «Ehi, speriamo che non vengano sui tedeschi, il comandante si sente sentimentale stasera». Fa già per parare la sberla che s'aspetta gli arrivi, ma il dritto guarda la Giglia tra le palpebre ombrate, al di sopra della grossa testa del cuciniere. Pin si mette in posizione, a mento alto, impettito, e attacca. «Chi bussa alla mia porta, chi bussa al mio porton? Chi bussa alla mia porta, chi bussa al mio porton?» È una canzone misteriosa e truculenta che ha imparato da una vecchia là nel vicolo. Forse una volta la cantavano i cantastorie nelle fiere. «Son capitan dei mori con la sua servitù, son capitan dei mori con la sua servitù». «Legna!» dice Mancino e tende una mano verso Giglia. Giglia gli porge una scopa d'erica, ma il dritto tende la mano sopra la testa del cuoco e la prende. Pin canta. «De dite mio godea, dov'è vostro figliol? De dite mio godea, dov'è vostro figliol?» Mancino ha ancora la mano tesa e il dritto sta facendo bruciare l'erica. Poi Giglia allunga sopra la testa del marito una manciata di rami di saggina e la sua mano si scontra con quella del dritto. Pin segue l'armeggio con occhi attenti e continua la canzone. «Mio figlio è andato a guerra, non può più ritornar. Mio figlio è andato a guerra, non può più ritornar». Il dritto ha preso la mano di Giglia. Con l'altra mano le ha tolto la saggina e l'ha buttata nel fuoco. Ora lascia la mano di Giglia e si guardano. «Il pane che lui mangia lo possa soffocar. Il pane che lui mangia lo possa soffocar». Pin segue ogni movimento con vampe di fuoco sotto gli occhi. raddoppia la foga del canto ad ogni distico, come stesse per lasciarci l'anima. E l'acqua che lui beve lo possano affogar, e l'acqua che lui beve lo possano affogar. Adesso il dritto scavalca il cuoco ed è vicino a Giglia. La voce tuona in petto a Pin che quasi gli si spezza. La terra che lui calca si possa sprofondar, la terra che lui calca si possa sprofondar. Il dritto si è acculato accanto alla Giglia. Lei gli dà i legni e lui li mette sul fuoco. Gli uomini sono tutti attenti alla canzone, che è al suo punto più drammatico. Che dite mia godea, son io vostro figliol, che dite mia godea, son io vostro figliol. La fiammata ormai è troppo alta. Bisognerebbe togliere legna dal fuoco, non aggiungercene ancora se non si vuole che si incendi il fieno del piano di sopra. Ma i due continuano a passarsi stecchi di mano in mano. Perdonami figliolo se parlai mal di te, perdonami figliolo se parlai mal di te. Pin suda dal calore, trema tutto dallo sforzo. L'ultimo acuto è stato così alto che nel buio vicino al tetto si sente un battere d'ali e un verso rauco. È il falchetto Babef che si è svegliato. La spada tiro fuori, la testa le tagliò, la spada tiro fuori, la testa le tagliò. Mancino tiene le mani sulle ginocchia adesso, sente il falchetto che si è svegliato e s'alza per dargli da mangiare. La testa fece un salto, in sala se n'andò, la testa fece un salto, in sala se n'andò. Il cuoco ha un sacchetto sempre con sé, dove tiene le viscere degli animali macellati. Ora ha il falchetto posato su un dito e con l'altra mano lo imbecca di pezzi di rognone rosso sangue. In mezzo a quella sala ci nascerà un bel fior, in mezzo a quella sala ci nascerà un bel fior. Pin tira il fiato per l'ultimo colpo. Si è avvicinato ai due e ormai grida quasi ai loro orecchi. Il fiore d'una mamma uccisa da un figliol, il fiore d'una mamma uccisa da un figliol. Pin si butta a terra. È esausto. Tutti scoppiano in applausi. Babef starnazza. In quel momento un grido si leva dagli uomini che dormono di sopra. Il fuoco! Il fuoco! La fiamma è diventata un falò e crepita propagandosi nel fieno che copre la graticciata di rami. Si salvi chi può. C'è un parapiglia d'uomini che arraffano armi, scarpe, coperte, che inciampano in altri coricati. Il dritto è balzato in piedi e ha riacquistato il dominio di se stesso. Sgombrare, presto. Prima via le armi automatiche, le munizioni, poi i moschetti. Da ultimo i sacchi e le coperte. I viveri prima ancora, i viveri! Gli uomini, in parte già scalzi e coricati, sono presi subito dal panico e arraffano la roba a caso, pigiandosi contro la porta. Pin si caccia tra le gambe e s'apre un varco per l'esterno e corre a cercarsi un posto donde ammirare l'incendio. È uno spettacolo magnifico. Il dritto ha tirato fuori la pistola. Nessuno se ne vada prima d'aver portato tutto in salvo. Portate la roba fuori e tornate. Al primo che vedo allontanarsi sparo. Le fiamme già lambiscono i muri, ma gli uomini hanno superato già il panico e si cacciano in mezzo al fumo e al fuoco per salvare le armi e le provviste. Il dritto entra anche lui, dà ordini tossendo in mezzo al fumo. Torna fuori a chiamare altra gente e a impedire che scappino. Trova Mancino già in un cespuglio, col falchetto in spalle e tutti i suoi bagagli, e lo rispedisce nel casone con un calcio, a recuperare la marmitta. «Guai a chi non vedo tornar dentro a prendere qualcosa», dice. La Giglia gli passa vicino, calma, e va verso l'incendio, con quello strano sorriso soltanto suo. Lui le mormora «Va via!» Un'anima trista, il dritto, ma ha il polso del comandante. Ora sa che la colpa dell'incendio è sua, di quell'irresponsabilità a cui ha preso il vizio ad abbandonarsi. Sa che certo passerà dei grossi guai con i comandi superiori, ma ora è tornato comandante. Muove le narici e dirige lo sgombero del casolare in mezzo all'incendio, dominando il fuggi-fuggi degli uomini sorpresi nel riposo che, pur di salvarsi, avrebbero perduto tutto il materiale. «Entrate di sopra!» grida. «C'è ancora un mitragliatore con due zaini di colpi!» «Non si può!» gli rispondono. «La graticciata è tutta in fiamme!» A un tratto si grida. «Crolla la graticciata! Tutti fuori!» Già si sentono i primi scoppi. Qualche bomba a mano rimasta nella paglia. Il dritto ordina. «Tutti fuori! Tenersi distanti dal casone, portar distante la roba, specie quella che può esplodere!» Pin, dal suo posto d'osservazione su una montuosità del terreno, vede l'incendio frammentarsi scoppi improvvisi come fuochi d'artificio e sente spari, vere e proprie raffiche di caricatori che cascano nelle fiamme e esplodono una cartuccia dopo l'altra. Da lontano deve sentirsi come una battaglia. In cielo c'è un volo alto di faville, le cupole dei castagni sembrano dorate. Un ramo da dorato diventa addirittura incandescente. È l'incendio che si propaga agli alberi. Ora forse brucerà tutto il bosco. Il dritto sta facendo l'inventario della roba che manca. Un breda, 6 caricatori, 2 moschetti, poi bombe, cartucce e un quintale di riso. La sua carriera è finita. Non comanderà più. Forse lo fucileranno. Pure continua a muovere le narici e a distribuire i carichi tra gli uomini, come se si trattasse di un'operazione normale di spostamento. Dove andiamo? Ve lo dirò poi. Fuori dal bosco, avanti. Il distaccamento, armi e bagagli, si dirige in fila indiana per i prati. Mancino porta la marmitta sulle spalle con Babeuf appollaiato sopra. Pin ha in consegna tutti gli arnesi da cucina. Una voce d'apprensione serpeggia tra gli uomini. I tedeschi hanno sentito gli spari e visto l'incendio. Presto li avremo alle calcagna. Il dritto si volta con la sua faccia gialla impassibile. Silenzio! Nessuno dica una parola. Camminate! Sembra stia dirigendo una ritirata dopo un combattimento sfortunato. Il nuovo accampamento è un fienile dove dovranno stare pigiati, con il tetto sfondato che lascia piovere dentro. Al mattino ci si semina a prendere il sole per i rododendri del dirupo. Ci si corica sugli arbusti brinati e ci si toglie la maglia per cercare i pidocchi. A Pin piace quando Mancino lo manda per faccende nei posti intorno, fino alla fontana a riempire secchi per la marmitta o per legna fino al bosco bruciato con una piccola accetta o al ruscello a pescare le piante di crescione con cui il cuoco prepara le sue insalate. Pin canta e guarda il cielo e il mondo puliti del mattino e farfalle montanare dai colori sconosciuti che si librano sui prati. Mancino si spazientisce ogni volta perché Pin si fa aspettare, mentre il fuoco si spegne o s'appiccica il riso, e lo copre di improperi in tutte le lingue ogni volta che arriva con la bocca piena di sugo di fragole e gli occhi pieni di svolazzi di farfalle. Allora Pin ritorna il ragazzo lentiginoso di Carrugio Lungo e pianta baccani che durano ore e che radunano attorno alla cucina gli uomini seminati per i rododendri. Invece, andando al mattino per i sentieri, Pin dimentica le strade vecchie dove stagna l'orina dei muli, l'odore di maschio e femmina del letto sfatto di sua sorella, il gusto acre dei grilletti schiacciati e del fumo che esce dagli otturatori aperti, il sibilo rosso e rovente delle frustate nell'interrogatorio. Qui Pin ha fatto scoperte colorate e nuove. Funghi gialli e marrone che affiorano umidi dal terriccio, ragni rossi su grandissime invisibili reti, leprotti tutti gambe e orecchie che a un tratto sbucano sul sentiero e spariscono subito a zigzag. Ma basta un richiamo improvviso e fuggevole, Pin è ripreso dal contagio del peloso e ambiguo carnaio del genere umano. Ed eccolo, a occhi strabuzzati e lentiggini fitte, che spia gli accoppiamenti dei grilli o infilza aghi di pino nelle verruche del dorso di piccoli rospi, o piscia sopra i formicai, guardando la terra porosa a sfriggere e sfaldarsi e lo sfangare via di centinaia di formiche rosse e nere. Allora Pin si sente attirato ancora dal mondo degli uomini incomprensibili, con lo sguardo opaco e la bocca umida d'ira. Torna da Mancino allora, da Mancino che ride sempre più agro, e non va mai in azione e resta sempre accanto alle sue marmitte con il falchetto tarpato e incattivito che starnazza sulla sua spalla. Ma la cosa più da ammirarsi in Mancino sono i tatuaggi. Tatuaggi su tutte le parti del corpo, di farfalle, di velieri, di cuori, di falci e martelli, di madonne. Un giorno Pin l'ha visto mentre stava cacando e gli ha scoperto un tatuaggio su una natica. Un uomo in piedi e una donna inginocchiata che s'abbracciano. Il cugino è diverso. Sembra sempre che si lamenti e che lui solo sappia quanto la guerra sia faticosa. Eppure è sempre in giro da solo col suo mitra e arriva all'accampamento per ripartire dopo poche ore, sempre a malincuore, come fosse obbligato. Quando c'è da mandare qualcuno in qualche posto, il dritto guarda in giro e dice «Chi vuole andare?» Allora il cugino scuote la grossa testa come fosse vittima d'un destino ingiusto, si carica il mitra in spalla e se ne va sospirando, con la sua dolce faccia da mascherone di fontana. Il dritto sta sdraiato in mezzo ai rododendri con le braccia piegate sotto la testa e il mitra tra le ginocchia. Certo, al comando di brigata stanno prendendo dei provvedimenti contro di lui. Gli uomini hanno occhi insonni e ispide barbe. Al dritto dispiace guardarli, perché legge nei loro sguardi un sordo rancore contro di lui. Pure ancora gli obbediscono, come per un mutuo accordo, per non lasciarsi andare alla deriva. Ma il dritto è tutto orecchi e ogni tanto s'alza e dà un ordine. Non vuole lasciare che gli uomini si disabituino all'idea di averlo come capo, nemmeno per un momento, perché equivarrebbe a perderli. A P non importa che il casone sia bruciato. L'incendio è stato meraviglioso e il nuovo accampamento è circondato da luoghi bellissimi da scoprire. Pina ha un po' paura ad avvicinarsi al dritto. Forse il dritto vorrà riversare tutta la colpa dell'incendio su di lui perché l'ha distratto con la sua canzone. Ma il dritto lo chiama. «Vieni, Pin!» Pin si avvicina all'uomo sdraiato. Non si sente di fare un'uscita delle sue. Sa che il dritto è odiato e temuto dagli altri. E l'essergli vicino in quel momento lo inorgoglisce. Si sente un po' suo complice. «Sei capace di pulire una pistola?» chiede il dritto. «Beh!» fa Pin. «Tu la smonti e io te la pulisco!» Pin è un bambino che fa un po' paura a tutti con le sue uscite. Ma il dritto sente che quel giorno Pin non tirerà in ballo l'incendio, né la giglia, né altre cose. Perciò è l'unica persona con cui si può stare in compagnia. Stende un fazzoletto per terra e ci posa i pezzi della pistola man mano che li smonta. Pin gli chiede se fa smontare anche lui e il dritto gli insegna. È una cosa bellissima stare a parlare così col dritto a bassa voce, senza che l'uno né l'altro dicano cose dispettose. Pin può fare dei confronti tra la pistola del dritto e la sua, quella seppellita, e dice i pezzi che sono diversi e più belli nell'una e nell'altra. E il dritto non dice come al solito che non crede che Pin abbia una pistola seppellita. Forse non è vero che non ci credessero. Lo dicevano solo per pigliarlo in giro. In fondo anche il dritto è un bravo ragazzo, a parlarci insieme così, e quando spiega il funzionamento delle pistole s'appassiona e ha solo pensieri buoni. E anche le pistole, a parlarne così, studiandone il meccanismo, non sono più arnesi per uccidere, ma giocattoli strani e incantati. Invece gli altri uomini sono ispidi e distanti. Non badano a Pin che gira intorno e non hanno voglia di cantare. È brutto quando lo scoraggiamento si infiltra nel midollo delle ossa come umido della terra e non si ha più fiducia nei comandanti e ci si vede già accerchiati dai tedeschi con i lanciafiamme per i pendii rododendri. E sembra che il proprio destino sia fuggire di vallata in vallata per morire a uno e che la guerra non finirà mai. A un certo punto cominciano i discorsi sulla guerra, su quando è cominciata, su chi l'ha voluta e su quando finirà e se si starà meglio o peggio di prima. Pin non sa bene la differenza tra quando c'è la guerra e quando non c'è. Da quando è nato gli sembra di aver sentito parlare sempre della guerra, soltanto i bombardamenti e i coprifuochi sono venuti dopo. Ogni tanto sulle montagne passano gli aeroplani e si può stare a guardare la loro pancia senza scappare nelle gallerie come in città. Poi si sente il suono cupo delle bombe scaricate lontano verso il mare e gli uomini pensano alle loro case, forse già in macerie, e dicono che la guerra non finirà mai e che non si capisce chi l'abbia voluta. Io lo so chi l'ha voluta. Io li ho visti, salta su a dire Carabiniere. Gli studenti sono stati. Carabiniere è più ignorante di Duca e più pigro di Zena il Lungo. Quando suo padre contadino vide che non c'era verso di fargli tenere la zappa in mano, gli disse «Arruolati nei Carabinieri». E lui ci si arruolò ed ebbe la divisa nera con la bandoliera bianca e fece servizio nelle città e nelle campagne senza capire mai quello che gli facevano fare. Dopo l'8 settembre gli facevano arrestare i padri e le madri dei disertori. Finché un giorno seppe che lo dovevano portare in Germania perché dicevano che teneva per il re e lui scappò. I partigiani dapprima volevano fargli la fossa per via di quei genitori arrestati, poi capirono che era un povero diavolo e lo misero nel distaccamento del dritto perché negli altri distaccamenti nessuno lo voleva. «Nel 40 io ero a Napoli e lo so», dice Carabiniere, «gli studenti sono stati. Avevano le bandiere, i cartelli e cantavano Malta e Gibilterra e dicevano che volevano 5 pasti ogni giorno». «Sta zitto che tu eri Carabiniere», gli dicono, «e tenevi dalla loro e andavi a portare le cartoline rosse». Duca spunta con forza toccando la pistola austriaca. «Carabinieri canagli bastarde porchi», dice tra i denti. C'è una lunga lotta coi carabinieri nella storia del suo paese, una lunga storia di carabinieri uccisi a schioppettate ai piedi dei tabernacoli delle vie Crucis. Il carabiniere s'affanna a protestare agitando le grandi mani contadine davanti ai suoi occhi nani, schiacciati dalla bassa fronte. Noi carabinieri gli siamo andati contro, sì signore, noi eravamo contro la guerra che volevano gli studenti, facevamo il servizio per tenere l'ordine, ma eravamo 1 contro 20 e così la guerra è stata fatta. Mancino è poco discosto e si tormenta, sta girando il riso nella marmitta, se smette di rimestare un minuto il riso s'appiccica. Intanto a tratti gli arrivano frasi dei discorsi degli uomini. Lui si vorrebbe trovare sempre in mezzo a loro quando parlano di politica, perché non sanno niente e bisogna che lui spieghi loro tutto. Ma adesso non può lasciare la marmitta e si torce le mani facendo piccoli balzi. «Il capitalismo!» grida ogni tanto. «La borghesia sfruttatrice!» come per suggerire agli uomini che non vogliono starla a sentire. «Nel 40 a Napoli, sì signore!» spiega carabiniere. «C'è stata una grande battaglia tra gli studenti e i carabinieri!» E se noi carabinieri gliel'avessimo date, la guerra non ci sarebbe stata. Ma gli studenti volevano bruciare i municipi. Mussolini è stato obbligato a fare la guerra. Poverino Mussolini, lo canzonano gli altri. Tu e Mussolini vi venissi cancri, grida Duca. Dalla cucina arrivano i gridi di Mancino che sbraita. Mussolini, la borghesia imperialista! I municipi, volevano bruciare i municipi. E noi carabinieri cosa dovevamo fare? Se riuscivamo a metterli a posto, però Mussolini la guerra non la faceva. Mancino, combattuto tra il dovere che lo trattiene alla marmitta e la voglia di andare a parlare di rivoluzione, sbraita finché non attira l'attenzione di Zanellungo e gli fa cenno di venire. Zanellungo, detto berretta di legno, crede che si tratti di assaggiare il riso e si decide a far lo sforzo ad alzarsi. Mancino fa... La borghesia imperialista, digli che è la borghesia che fa la guerra per la spartizione dei mercati. Merda, gli fa Zena e gli volta le spalle. I discorsi di Mancino l'annoiano sempre. Non capisce quello che lui dice, non sa niente di borghesia e di comunismo. Un mondo dove tutti devono lavorare non l'attira. Preferisce un mondo dove ognuno s'arrangi per conto suo, lavorando il meno che può. La libera iniziativa, sbadiglia Zanellungo, detto berretta di legno, disteso a pancia all'aria nei rododendri, grattandosi attraverso gli strappi dei calzoni. Io sono per la libera iniziativa, che ognuno sia libero da arricchirsi col proprio lavoro. Carabiniere continua a esporre la sua concezione della storia. Ci sono due forze in lotta, i carabinieri, povera gente che vuole tenere l'ordine, e gli studenti, la razza dei pezzi grossi, dei cavalieri, degli avvocati, dei dottori, dei commendatori, la razza di quelli che hanno stipendi che un povero carabiniere non si sogna neanche e non ne hanno ancora basta e mandano loro a fare la guerra per aumentarli. «Non capisci niente!» salta fuori Mancino che non ne può più e ha lasciato Pina a badare alla marmitta. «È la sovrapproduzione, la causa dell'imperialismo!» «Va a fare il cuoco!» gli gridano. «Sta attento che il riso non s'appiccichi anche stavolta!» Ma Mancino è in piedi in mezzo a tutti loro, piccolo e insaccato in questo giubbotto marinaio sporco sulla spalla e di cacca di falchetto, e agita i pugni in un discorso che non finisce mai. «E l'imperialismo dei finanzieri e i mercanti di cannoni e la rivoluzione che ci sarà in tutti i paesi appena finita la guerra, anche in Inghilterra e in America, e l'abolizione delle frontiere nell'internazionale con la bandiera rossa!» Gli uomini sono abbovati tra i rododendri, con le magre facce mangiate dalla barba, i capelli spioventi sugli zigomi, portano indumenti spaiati, i cui colori vanno tendendo a un uniforme grigio unto, giacche da pompieri, da milizia, da tedeschi con i fregi strappati. Sono gente venuta lì per vie diverse, molti disertori dalle forze fasciste o presi prigionieri e assolti, e molti ancora ragazzi spinti da un impeto caparbio, con solo una voglia indistinta di dar contro a qualcosa. Mancino è antipatico a tutti loro perché sfoga la sua rabbia a parole e ragionamenti, non a spari, a ragionamenti che non servono a nulla. Perché parla di nemici che non si conoscono, capitalisti, finanzieri. È un po' come Mussolini che pretendeva di far odiare inglesi e abissini, gente mai vista, che vive al di là del mare. E gli uomini mettono in mezzo il cuciniere, gli saltano a cavallina sulle piccole spalle curve, gli danno manate sulla grossa testa calva, mentre il falchetto Babeuf si incattivisce e rote agli occhi gialli. Interviene il dritto, restando un po' discosto, dondolando il mitra contro le ginocchia. «Va a far da mangiare, Mancino!» Neanche al dritto piace discutere, ossia gli piace solo parlare d'armi e d'azioni, di quei nuovi mitra ridotti che cominciano a usare i fascisti e sarebbe bello procurarsi, e soprattutto gli piace dare ordini, appostare gli uomini al riparo e saltare avanti sparando piccole raffiche. «Brucia il riso! Vai che brucia il riso! Non lo senti l'odore?» gridano gli uomini a Mancino mandandolo via a spintoni. Mancino chiama in causa il commissario. Giacinto è tornato proprio allora dal comando, ma non ha saputo ancora dire se ci sono novità. Si è stretto nelle spalle e ha detto che prima di sera passerà il commissario di brigata per un'ispezione. Gli uomini, saputo questo, si sono risdraiati tra i rododendri. Adesso verrà il commissario di brigata e aggiusterà tutto lui. Inutile stare a pensarci. Anche il dritto pensa che è inutile starci a riflettere. Il che commissario di brigata gli dirà quale destino gli tocca. E anche lui si è risdraiato tra i rododendri, con più apprensione però, rompendo tra le dita i rametti degli arbusti.